Undicesima puntata. Buongiorno e benvenuti all'undicesima puntata di Bonjour Bidon. Buongiorno, l'undicesima puntata alle 11 del 12 luglio. Sì, fosse stato l'11 sarebbe stato più divertente, ma è il 12. Vabbè, è il 12 e io sono Angelo Troppa. E io sono Leonardo Piccione e Angelo non so fino a quando sarà qui con me, perché ormai la sua reputazione, sulla sua reputazione si addensano delle nubi sempre più nere. E cosa è successo? Stamattina su un famoso giornale francese c'era un reportage sul tuo passato. E cosa ho fatto? Dice che una volta hai bevuto il caffè nello stesso bar dove 7 anni prima l'aveva bevuto Lance Armstrong. Vabbè, ma cosa significa? Beh, allora il tuo passato comincia a essere preoccupato. No, vabbè, allora ieri hanno scritto di te che tuo fratello è andato nel liceo dove 11 anni prima era stato anche il pronipote di Ferrari, del dottor Ferrari. Vabbè, ma sì, cosa c'entra? Molte ombre, è da verificare sta notizia, perché molte ombre si addensano anche ombre. Su di me le ombre, dici? Sì, si addensano su di noi, purtroppo non si addensano sulla nostra postazione, no, dove oggi fa caldissimo veramente molto, e squagliandoci al caldo io direi che possiamo tranquillamente iniziare. Vai. E buongiorno cari amici. Ciao. Di Bonjour Bidon. Come avrete intuito, prima si scherzava così amenamente su un fatto che è successo ieri, non diciamo di stretta attinenza alla gara. No, assolutamente. Si parlava per l'appunto dell'articolo, sì, delle Mondo, sì, dove sì, si lanciavano delle insinuazioni. Velate, nemmeno tante velate sul passato di Fabio Aru. Noi non lo commenteremo a lungo questo articolo, perché obiettivamente ci sembra un lavoro giornalistico fatto molto male, perché è una, sì, serie di nomi messi lì un po' a caso, sì, non sì, a caso, però senza un collegamento preciso e senza poi arrivare a un qualche tipo di risultato giornalistico. Diciamo e che quindi lascia il tempo che trova, però un pochino sporca le acque. No, non fa piacere, perché comunque i francesi preferiamo averli protagonisti in gara, e sono bellissimi i protagonisti, perché i ciclisti francesi probabilmente sono i più attivi, divertenti e simpatici della corsa. Dal punto di vista giornalistico forse un po' meno in questo momento. Vabbè, ma andiamo. No, per concludere, noi abbiamo imparato a non mettere troppo le mani sul fuoco su certi argomenti. Sì, certo. Però insomma, questo articolo che abbiamo letto ieri, davvero di giornalistico ha molto poco. Non ci dice nulla che possa modificare in qualche modo le nostre opinioni. Andremo avanti ignorandolo tranquillamente. Sì, sì, sì, sì, andiamo avanti. Comunque, cosa abbiamo fatto? Cosa hai fatto tu ieri? Ma io niente di particolare, tu mi sembra che hai fatto una cosa simpatica ieri sì, sera. Sì, ieri sera sono stato coinvolto in una performance molto bella che è avvenuta qui a Cagliari, sì, organizzato da una compagnia che si chiama Compagnia B, ed è una fatto? Performance sugli sguardi, cioè i partecipanti avevano modo di guardarsi negli occhi per un minuto. Ed wow, è stata wow, molto bella. Sì, ti è piaciuta? Sì, sì, è stata molto interessante da vedere. Io non l'ho fatta. Sarebbe interessante farla con i ciclisti, se riuscissero a guardarsi negli occhi per, per qualche minuto e poi a segnare le emozioni, sì, che hanno provato guardando negli occhi. C'è questo sguardo allo scorso Giro d'Italia, questo scambio di sguardi tra Quintana e Dumoulin alla fine della tappa di Asiago. Io in conferenza stampa chiesi a Quintana: ma tu nello sguardo di Dumoulin hai visto qualche segnale di debolezza? E lui non rispose, come è sua abitudine. Sì, Quintana risponde molto poco alle domande, si spinge molto poco oltre nelle risposte. E qui le battute si potrebbero sprecare, ma non le facciamo. No. E evidentemente non vide nessun segno di debolezza, perché poi il giorno dopo Dumoulin vinse il Giro d'Italia con la cronometro di Milano. La vera domanda sarebbe stata a Dumoulin: cosa hai visto esattamente nello sguardo di Quintana? Spiegacelo, spiegacelo. Però in conferenza stampa non c'era quel giorno Dumoulin. Va bene, comunque ieri stiamo facendo di tutto pur di non parlare della tappa di ieri che ci ha entusiasmato, cavolo. Dai, ragazzi, questa bella volata. Beh, dominante. Scusate, mi prendo un secondo. Io chiedo ai gentili ascoltatori di questa trasmissione, no? Noi parliamo di ciclismo. Io vorrei sapere se tra di voi, o tra i vostri amici, tra i vostri parenti, tra le persone che avete conosciuto nella vita, c'è qualcuno che si appassiona molto nei giorni in cui la tappa arriva in volata. Cioè, conoscete qualcuno che dice: ah, che bello, per fortuna oggi c'è una bella volata, dopo appunto chilometri di zero assoluto, non vedo l'ora, basta con queste tappe mosse dove succede troppo, mi piace troppo, per piacere fatemelo sapere, cioè scrivetecelo. Beh, a me piacciono, scusami Angelo, ma a me le tappe con ieri piacciono perché mi sto sul divano, faccio altro mentre ascolto la corsa. Vabbè, ma allora ti piace fare altro, cioè ti piace... No, ma leggo dei leggo le storie dei corridori che sono in fuga. Vabbè, ieri, ma per esempio vabbè, a parte il malato di mente Leonardo Piccione, tra di voi o tra i vostri amici fatemelo sapere, per piacere, ci tengo, perché c'è anche gente alla quale piace il sushi, no? Io non li capisco, però li rispetto. Molta gente, ti stai facendo tanti nemici, ti avviso. No vabbè, una serata per me perfetta sarebbe sushi e volate. Comunque, ieri ha vinto Kittel, il bel Kittel, bellissimo. Il bel Kittel, permettimi di fare una piccolissima digressione alla Beppe Conti, come ormai consueto. Kittel bello, però il ciclista bello per antonomasia resta Hugo Koblet. Hugo Koblet che nel Tour del 51, il primo e unico che ha vinto, durante la fuga che poi gli permise di vincere il Tour, lo inseguivano tutti in quella fuga, c'erano Coppi, Bartali, Magni, Bobè, però lui vinse, guadagnò 4 minuti su tutti quanti ed ebbe il tempo, pochi chilometri prima dell'arrivo, di fermarsi, sciacquarsi la faccia con una spugna bagnata e passarsi e sistemarsi i capelli per farsi bello prima dell'arrivo. E dopo questa fuga, questa vittoria del Tour, lo chansonnier francese Jacques Grelot gli trovò un soprannome bellissimo. Hugo Koblet sarebbe stato da quel giorno il pedaleur de charme. Un'altra domanda, secondo voi è più bello Kittel o è più bello Koblet? Andate a cercarvelo su Google e scegliete chi è il più bello. Sulla bellezza dei corridori parleremo nei prossimi giorni. Sì, c'è una rubrica che arriverà presto. Comunque, noi andiamo a piè sospinto a parlare di questa tappa di ieri che a così proposito tanto... di bellezza, chiamiamo... Assolutamente, tra belli e belli, io direi che il terzo del gruppo Kittel Koblet non può che essere il nostro Filippo Kautz da Milano. Filippo, buongiorno! Buongiorno, hai stacchettato? Sì, stacchettato anche oggi, ma figurati. Perché mi stavo pettinando, non sono riuscito a cogliere lo stacchetto. Koblet ce l'aveva sempre con sé il pettine, non era un caso raro. Sì, è vero, è vero. Anche alla partenza delle corse gli piaceva pettinarsi. Probabilmente uno dei ciclisti più belli della storia, sicuramente non il più sexy, perché è risaputo e fuori discussione che il ciclista più sexy della storia del ciclismo è Alexander Vinokurov. Ah sì? Ma da dove l'hai presa questa informazione? Quale statistica? Dal mio cuore. Ah, dal tuo cuore. Vabbè, ma faremo così, come dicevamo prima, parleremo della bellezza e del lato charmant dei corridori nei prossimi giorni con un'esperta, con una vera esperta. Però sì, parliamo di Kittel, sta peggiorando un sacco, secondo me, non so se adesso, probabilmente l'anno prossimo torna alla Alpecin, forse migliora, ma più vince più l'acne peggiora, l'ho notato ieri. Visto che c'ha l'acne, cioè, caspita, per fortuna, che bello avere ragione. Che simpatico questo programma dove tre uomini parlano della bellezza di altri uomini. Ma comunque andiamo avanti. Però su Kittel ieri hai indovinato il pronostico, Filippo, hai vinto il pane Carasau in palio. Sì, mi piace, sai, a me piace sempre fare pronostici a rischio e ogni tanto li prendo, molto raramente, però ogni tanto li prendo. Quello di ieri era rischioso. Io ho voluto azzardare e sono stato ripagato. Il rischio paga. Ma invece la volata, se proprio vogliamo dire due parole, come l'hai vista? L'ho vista, cioè è talmente superiore Kittel ormai che... cioè bisogna inventarsi qualcosa di anomalo per batterlo. Ieri ci ha provato McLay a inventarsi una volata bizzarra lunghissima e di fatto ha fatto la prepista per Kittel, dato che Kittel l'ha anche ringraziato dicendo l'ho visto partire e mi ha lanciato. E invece so che tu hai il solito debole per Buany, che ieri ne ha combinata qualcun'altra delle sue, mi sembra. Ieri sono volati un po' di pugni, sono volati un altro po' di insulti, il buon Sabatini si è preso un cepponcino da Kittel. Mi sembra che anche lui qualcosina l'abbia dato, per cui c'è poco di cui lamentarsi. E Kittel è stato penalizzato di un minuto, se non sbaglio, una di quelle penalizzazioni che a un velocista non servono veramente a nulla. Sì, simbolica. Manco fosse in lotta per la Lanterna Rouge, però insomma, almeno la giuria è riuscita a dire il suo anche ieri. Sì, Invece, Angelo, un tweet abbiamo... Sì, per chi ha modo di vedere il video, notate che sul nostro schermo è comparso un tweet che è stato scritto da uno dei protagonisti di ieri, dal nostro preferito ormai André Greipel, che si scusa. Sì, si scusa con i suoi tifosi, con la sua squadra. Ieri Greipel non è arrivato nei primi 10, nemmeno è arrivato 12esimo, secondo è stato un altro tedesco, Degenkolb, però Greipel ieri aveva fatto lavorare tutta la sua squadra per la volata. E infatti lui nel tweet ringrazia la squadra, dice: sono contento per il lavoro della mia squadra, per quello che hanno fatto, e però sono imbarazzato dalla mia stessa performance. Congratulazioni alla mia squadra, ma sono imbarazzato. E Voigt, sempre su Twitter, gli ha risposto dicendo: hey Andre, il mio rispetto per te, tutto il mio rispetto per te, perché sei così onesto con te stesso, mostri carattere con quello che dici, vedrai che domani vincerai tu. Quindi domani, oggi, Voigt si espone e dice che la rivincita di Greipel arriverà oggi stesso. Ovvero oggi. Tu hai notato che in telecronaca Pancani ogni volta che parla di un tedesco dice tedescone? Greipel è un tedescone. Kit è un tedescone. E anche Degenkolb. Sono dei tedesconi. Sono tutti dei tedesconi. I francesi sono tutti francesini. Un francesone, un tedeschino non ci sono. Però c'era un francesone ieri in fuga, che era Johan Offredo. Due francesi. Un francesone e un francesino. Offredo e Gébert sono andati in fuga ieri, e ieri all'arrivo Offredo era molto arrabbiato perché nessun altro, quando lui è partito a inizio tappa in fuga, nessuno l'ha seguito, e lui si è arrabbiato a fine tappa per la mancanza di iniziativa dei suoi colleghi. Ha detto: qui siamo al tour, la gente aspetta che noi facciamo qualcosa, è sulle strade per vederci, e invece nessuno, quando io sono partito nessuno mi è venuto dietro. Gli è andato dietro il giovanissimo Elie Gesbert, il più giovane corridore del tour. È stata una bella fuga quella dei due, li abbiamo visti salutarsi e sorridersi. Un altro che invece ieri voleva andare in fuga ma non ce l'ha fatta perché l'hanno bloccato mentre stava cercando di aggregarsi ai fuggitivi è Stephen Kung della BMC, che all'arrivo sempre di ieri ha detto: stavo per andare in fuga, poi quelli della Quick Step e della Lotto mi hanno detto no, se vai tu la fuga non va perché sei troppo forte e ci fai fare troppa fatica, perché se vai tu in fuga dobbiamo lavorare di più. E quindi Kung ieri ha detto: sono contento perché vuol dire che mi rispettano e pensano che io sia forte, però io ieri in fuga ci volevo andare. Questo un po' per dire cosa sono le fughe del tour in queste tappe di pianura, dove purtroppo si tende, le squadre dei velocisti tendono a far... Aspettiamo ancora nei vostri commenti di sapere chi di voi ama le volate, mi raccomando, non vedo nessun commento, quindi probabilmente non esiste nessuno malato come te, Leonardo, che aspetta i giorni di tappe. Va bene, comunque noi continueremo a parlare del Tour de France subito dopo il nostro spot. Ah, c'è lo spot? Sì, lo mandiamo oggi, quello della Altrecin. Ok guys, 2 more minutes. 2 minuti. Mi sto rinforzando i ginocchi. Altrecin. Tecnologia asburgica per i tuoi ginocchi. E noi continuiamo a parlare del Giro d'Italia. Non di ginocchi. Però, tra l'altro, vabbè, neanche del Giro d'Italia, tra l'altro. No, del Giro potremmo parlare, perché con l'ospite che abbiamo potremmo parlare di tutto il ciclismo del mondo. Però oggi parliamo di Tour. Con chi? Con Gino Cervi. Abbiamo al telefono il nostro Gino Cervi, un giornalista, scrittore, editor, un appassionato di ciclismo e il nostro amico. Gino! Ciao, buona giornata. Ciao Gino, dove sei? Come stai? Bene, bene, sono in nel cuore della pianura padana, a Fosa, una Fosa Pavia, sotto le torri grosse del centro storico, e aspettavo di parlare di Tour con Bidon. Pensavo facesse fresco nella pianura padana in questi giorni, ma mi sa di no. Ma guarda, invece proprio no. Senti, io mi sento in colpa perché ti ho fatto vedere la tappa di ieri, ho detto guardala perché poi ne parliamo a Bonjour Bidon. In realtà l'ho ascoltata perché sentivo l'audio, però poi ho visto che tanto più o meno succedeva molto, e poi mi sono ho guardato gli ultimi 5-6 km, da quando hanno ripreso i due sventurati. cosa ti è sembrato? È stata una bella volata? Hai qualcosa proprio che vuoi dirci sulla volata di ieri? Tu trovi appassionante le volate? Perché no, fa parte, certo, mi appassionano le volate, anche se quella di ieri era, forse non è stata quella più adrenalinica, perché c'era troppa differenza tra il vincitore e gli altri, però perché no, le realtà anche le lunghe attese, come insegnano i poeti, sono piene di cose da pensare, da immaginare. Aspettare la volata fa parte del ciclismo. Cioè c'è la Milano-Sanremo che spesso si risolve dopo 300 km. Vero? Certo. Uno sprint fa parte di questo genere letterario, di sottogenere letterario del ciclismo. C'era un cronista sportivo, uno scrittore di ciclismo che era Bruno Raschi, che l'aveva definita il lungo prologo di una coltellata. Quindi le coltellate che ci bello. Stanno dopo le... Senti Gino, ma invece in questi giorni si sta parlando un sacco della questione del fair play dopo l'episodio tra Aru e Froome. Io ho letto una cosa molto bella ieri su Velo News, credo, in cui si dice che il ciclismo, il fair play esiste nel ciclismo per farlo rimanere solo uno sport di uomini anziché uno sport di macchine, cioè dove l'elemento meccanico non deve contare. Però in realtà il ciclismo è appunto uno sport sia di uomini che di macchine, e quindi quando la macchina si rompe fa parte del gioco. Come funziona il fair play? Perché c'è il fair play nel ciclismo? Tu hai una risposta a questa domanda? No, no, la risposta io credo che sia più un effetto, come dire, di risonanza, no? Di risonanza di questa parola che da una quindicina d'anni, forse di più, vent'anni, è entrata nel mondo. Soprattutto nel calcio, no? Anche in modo istituzionale, la FIFA, la UEFA hanno fatto del fair play uno slogan, per carità, legittimo e doveroso rispetto al valore di comunicazione di etico, se vogliamo, che ha lo sport e il calcio così pervasivo in modo particolare. Però dopodiché molte volte si capisce che il contenitore spesso è vuoto, no? Diventano parole d'ordine e poco più. Quindi secondo me è un effetto contagio dal calcio questa cosa del fair play nel ciclismo. Il ciclismo non è per natura, tranne appunto la volata di qualche giorno fa, non è uno sport di contatto, a differenza del calcio e di altri in cui non c'è uno scontro fisico violento tra i contendenti. E, certo. E quindi parlare di fair play nel ciclismo, certo, la fair play è la sportività, è il rispetto dell'avversario, ma che in quanto avversario deve essere battuto, altrimenti non è. Sì, ma anche perché poi questo tipo di fair play nei confronti della maglia gialla non è appunto nei confronti dell'avversario in particolare, di tutti gli avversari, è solo un rispetto per il simbolo più che per l'uomo e che per l'atleta avversario, quindi è una cosa molto particolare. Tu cosa ne pensi? Saresti con noi o con chi sta proponendo questa crociata contro il fair play? Noi sì, non la proponiamo, ma qualcuno sì. Io mi vesto della maglietta contro fair play firmata Bidon, sì. Quindi in gara ce ne si suona e non ci si ferma e non ci si aspetta, se, appunto nel rispetto della persona. Che quello è la base, no? Lo sappiamo. Però appunto se uno ha un problema tecnico oppure ha un problema fisico, non vedo perché lo si debba aspettare, o mi sembra veramente una cosa un po' ipocrita, ecco. Senti Gino, noi vogliamo approfittare della tua presenza e del fatto risaputo che tu sei un appassionato lettore, un esperto di letteratura. Tu, ai nostri ascoltatori, hai qualche libro, qualche consiglio letterario da dare per seguire contemporaneamente il tour, per avere una doppia lettura? Per fare qualcosa durante queste tappe così lunghe? Sì, ecco, per aprire un libro sul divano intanto che non succede niente. Esatto. Guarda, io credo che il più bel libro mai scritto, per esagerare, insomma, sul tour sia scritto da Mario Fossati. Mario Fossati è stato, credo, il più grande cronista di ciclismo italiano, superiore a mio avviso anche al grande Gianni Brera per purezza di descrizione e per capacità di intensità tecnica nella descrizione di una corsa e di quello che sta intorno alla corsa, senza concessioni eccessive al colore o alla letteratura in quanto tale, per il gusto della letteratura. Però Mario Fossati ha seguito il ciclismo per una vita dal dopoguerra, dal 1946, quando era entrato in Gazzetta, e poi negli anni a seguire, poi nella mitica redazione del Giorno degli anni 60, per finire poi alla fine della sua carriera a Repubblica. E tra le sue passioni, l'altra grande passione erano i cavalli, era San Siro, era l'Ittica. Fossati era forse stato il più vicino anche dal punto di vista umano, perché era un grande amico di Fausto Coppi. E lo seguiva anche nelle trasferte invernali nei velodromi del nord, da Copenaghen ad Amsterdam a Düsseldorf, quindi vivevano fianco a fianco. Ecco, l'unico libro, Mario Fossato non ha mai voluto scrivere un libro, l'unica volta che qualcuno riuscì a convincerlo a pubblicare un libro che non fosse appunto l'articolo, il pezzo per il giornale, lui lo dedicò al tour del 52 e il libro si chiama Coppi, è stato ripubblicato fortunatamente non più di 4-5 anni fa dal Saggiatore e racconta quel tour, racconta da cronista, da suiveur, il grandissimo tour di Fausto Coppi del 52. E lo fa raccontando una Francia ciclistica, una Francia geografica, una Francia culturale che secondo me vale ancora oggi. Quindi il mio consiglio è andatevi a comprare Mario Fossati Coppi, il titolo è Coppi, Alpi d'Huez, Galibier e Pirenei, il campionissimo verso la gloria del Tour del 52. L'ha ripubblicato il Saggiatore e ci sono alcune fotografie che mi piacerebbe, se abbiamo un attimo di tempo, restituire. Una, ad esempio, a un certo punto, nelle prime tappe, siamo ancora nel nord, in Lorena, sì. e a un certo punto Vastenbergen, grandissimo velocista, a proposito di velocisti, grandissimo velocista fiammingo, non ce la fa più, si ferma a bordo strada, si sdraia, perché il giorno prima Coppi aveva cominciato a fare il treno, aveva tenuto una media altissima, il giorno dopo sono in molti quelli che nel caldo di luglio non riescono a tenere il passo e Fossati scrive: l'afa sbiadiva la Lorena, il paesaggio sembrava diluito dalla calura, avevamo rivalicato il confine, a Lippi aveva fermato la Guzzi a fianco di Vastenbergen che allungatosi su un prato aspettava la vettura scopa, Rick era distrutto, non aveva nemmeno voglia di scacciare una formichina che gli pizzicava una caviglia. I personaggi al tour, vittoriosi o sconfitti, vi spiccano sempre come su un palcoscenico. Un pugno di lorenesi aveva circondato Vastenberg, che aveva deciso di andarsene a casa e che confermava quei propositi agli inviati belgi non già con le parole, ma con un movimento quasi impercettibile del mento. E quindi, che bello! Questo è il racconto di Mario Fossati di un'avventura ciclistica che però è appunto in questo caso un'avventura umana, è un dipinto di uno scorcio di Francia in questo caso. E di umanità, e ci restituisce un po' di poesia che in queste tappe un po' noiose ci tendono a farci dimenticare, no? Tutta questa poesia, umanità contenuta nel ciclismo, nel Tour de France. Un'ultima cosa, non l'abbiamo detto prima, lo diciamo adesso, Gino è stato il curatore dell'edizione del 100 Giro, del nostro libro sul 100° Giro d'Italia che è uscito per Ediciclo prima del Giro d'Italia, ha scritto dei brani all'interno del 100 Giro, proprio negli scorsi giorni è uscita anche l'edizione digitale del 100 Giro, ve lo ricordiamo, è disponibile su Amazon e su tutti gli store digitali. E domani sera presso Rossignoli, a Milano, Biciclette Rossignoli, c'è un incontro con Gino e con Filippo e credo qualcun altro della redazione milanese, della parte milanese della redazione di Bidon, a Histoire du Tour, domani sera, Gino, giusto? Sì, domani sera dalle 18, in corso Garibaldi, da Rossignoli, che è un ciclista storico di Milano, forse la bottega di biciclette che tutti i milanesi riconoscono come memoria delle due ruote a Milano. Dalle 6 parleremo di tour, ci sarà della buona birra, mi hanno assicurato. Ah, perfetto. E quindi si capisce che c'entra in qualche modo Kautz, la birra. E quindi parleremo di storie di tour, in una Milano calda e afosa. Uniremo idealmente la vostra Cagliari ventosa alla tappa che sarà già pirenaica dopo domani. Sì, domani è pirenaica. Allora, ricordiamo alle 18, domani... Alle 19. Gino, a che ora? Ah, dalle 19, vero? 19, bravo Angelo, bravo Angelo. Pensavate mi fossi addormentato, ma invece ero in ascolto. Alle 19, Rossignoli, Milano, domani. Grazie Gino, ci sentiamo presto. Viva Bidon, a presto. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Dunque, noi continuiamo, è arrivato il momento di lasciare lo spazio al nostro sponsor. Certo, al nostro sponsor, che ieri ha presentato la nuova pubblicità e oggi con grande piacere la riascoltiamo. Sì, vai. Lo sponsor di Bidon. Forza nonno. Nonno! Che c'è? Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Vedi che nonno sta facendo un sudoku? E dai nonno, raccontamela! E va bene! Era il 1900... 59! E il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono, perché gli orologi... Avevano al posto del numero 12 il 13. Ma perché diamine non mi lasci tranquillo a fare il sudoku, se la sai già sta storia? Cosa vuoi da me? Mi fai un regalino? È finita la pace in questa casa. La collezione degli orologi sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850-50-80-90-60-70-80. Tutti riceverete in omaggio il volume con la storia della fonduta. 850-80-90-60-70-80. Questa battuta era mia! Ma io sono piccola, nonno, l'entusiasmo dei piccoli! Non ti sopporto, ma perché non te ne vai al mare? Uffa! Porco mondo! E molto bene, questa era la nostra pubblicità. Con l'entusiasmo dei piccoli andiamo alla nostra nuova vecchia rubrica che si chiama Vox Populi. Abbiamo preparato una serie di nuove frasi fatte, in questo caso sono delle domande fatte. Assolutamente, partiamo col nuovo stacchetto. Quasi che da grinta, non credere. Che grinta adesso per questa rubrica nuova. Ecco. Sì, adesso Filippo ci rimarrà male che abbiamo un nuovo stacchetto ed non è per lui. No, ma io volevo, cioè, secondo me su queste tappe che voi dite noiose, io sapete che non sono d'accordo, potremmo pensare di fare una puntata di soli stacchetti. sarebbe un'idea. Ma invece abbiamo preparato, Angelo? Sì, assolutamente. Proprio perché queste lunghe dirette lasciano molto tempo ai commenti e alle chiacchiere, abbiamo preparato di nuovo un Vox Populi, cioè cosa sentiamo in giro, cosa si sente. E abbiamo preparato un elenco di domande che spesso si rivolgono ai commentatori televisivi e che i commentatori televisivi più di una volta nell'arco di un tour o di un giro d'Italia o di una vuelta si trovano a dover rispondere. Ne ho alcune io, alcune Leonardo. Come la volta scorsa, facciamo una piccola sfida. Secondo me le mie sono decisamente migliori. Ah, sei convinto? Sono sicuro. Allora io comincio dalla domanda tipica che fa l'impaziente ogni volta. Come mai non ha ancora attaccato nessuno? domanda legittima. Legittima. Soprattutto a sproposito. Invece io ho la domanda dell'osservatore che puntualmente chiede: a cosa serve la scatolina nera sotto il sellino dei corridori? È vero. Poi c'è anche quello ancora più tecnico che chiede: ma che rapporto montano i corridori su salite come quelle di oggi? E questa è una domanda anche che viene fatta sempre. Sì, gente opportuna. Per esempio c'è invece l'osservatore tattico, quello che riesce a vedere dietro le trame della corsa, che chiede: come possiamo interpretare il fatto che il corridore X abbia mandato in avanscoperta i compagni Y e Z? L'avanscoperta è la parola chiave, in questo caso, molto bella. Poi c'è il novizio, quelli che si avvicinano per la prima volta al ciclismo e chiedono: cosa significano i numerini che compaiono in alto nella grafica del tour, quelli che indicano il gruppo maglia gialla, il gruppo degli inseguitori? Effettivamente questa è molto bella, questa domanda è molto bella. I numerini in alto nella grafica sono belli. Perché vanno a ritroso pian piano che arrivano al traguardo? Esatto. Come? Ma cosa significheranno mai? E poi c'è la domanda del salutista, che chiede: come si alimentano i corridori in giornate come questa? E a questa si associa quella dell'ecologista. Chi raccoglie le borracce che i corridori gettano a bordo strada durante le tappe? E lì scatta la polemica. E lì proprio polemica. E infine c'è il curioso, c'è il curioso che si domanda in maniera un po' maliziosa: ma in che modo i ciclisti fanno i loro bisogni durante la gara? questa la fanno sempre. E poi la mia ultima è per il pensatore, che chiede: ma che senso ha andare in fuga in una tappa piatta come questa? Sì, questa è una domanda che calza a pennello per questi giorni. E dietro questa c'è la domanda: che senso ha una tappa come questa? Però invece ha senso. La mia ultima, che secondo me è la più bella, che con una nota polemica al suo interno, è quella del sindacalista, dell'osservatore sindacalista, che chiede: ma i corridori si allenano anche nei giorni di riposo? Eh? È da contratto? Filippo, chi ha vinto? Allora, beh, a parte che ne manca una, scusatemi, la aggiungo, ma è, se chi se l'ha vinto quattro tappe, perché non è in testa alla classifica? Però non l'hanno ancora fatta, magari la fanno oggi. No, la facevano con Cipollini, volte mi sono trovato in difficoltà a spiegare il fatto che Cipollini non avrebbe vinto il Giro d'Italia nonostante vinceva la metà delle tappe. Proprio per questo senso nostalgico non può che vincere quella sui rapporti, che però va formulata come la formulava Adriano De Zan 4 o 5 volte durante ogni diretta, che era: Davide Cassani, i rapporti. Bella, bella, bella. Comunque ci rendiamo conto che ne manchiniamo moltissime, quindi come la volta scorsa vi chiederemo di votare, di farci sapere qual è la vostra preferita, di cliccare mi piace. Faremo oggi pomeriggio forse stesso, sì, proveremo a preparare i post nel quale vi chiederemo di suggerircene delle altre domande che abbiamo già sentito durante le dirette, o che voi avete fatto durante le assolutamente dirette. Io quella della pipì probabilmente l'ho fatta. Sì. Quindi fateci sapere, nei prossimi giorni vi faremo sapere qual è la domanda più domanda fatta come domanda durante le dirette domanda. Ma a proposito di grandi esperti e appassionati di ciclismo, Pietro Pisaneschi ci presenta la tappa di oggi. Vai Pietro! Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della 11ª tappa di questo Tour de France 2017 da Aimé a Pau per 203 km, un'alta frazione che con amplissima probabilità risulterà totale appannaggio dei velocisti con l'arrivo in terra pirenaica a Pau, giunta alla 69esima presenza come città di arrivo o partenza di tappa, dietro solo a Parigi e Bordeaux, nella storia della Grand Boucle. Poco spazio per una fuga, troppo ghiotto l'arrivo per le ruote veloci che durante la giornata troveranno l'unica difficoltà altimetrica nella Côte d'Ersouladour, poco meno di 1,5 km al 4,2%, famosa più per essere meta del pellegrinaggio verso Santiago de Compostela che per mietere vittime fra i ciclisti. Dal momento che 4 delle precedenti 5 volate sono state vinte da Marcel Kittel, è fin troppo facile pronosticare il tedesco come il favorito per essere incoronato anche oggi re fra gli sprinter nella piazza di Pau, a poca distanza dal castello di Enrico IV. I principali contendenti, ossia Greipel, Matthews, Boigny, Christophe, Colbrelli e il re di vivo Degenkolb, sapranno però a che santo votarsi. A 99 km dall'arrivo, in località La Bastide d'Armagnac, il gruppo incontrerà infatti la chiesetta di Notre-Dame des Cyclistes, una sorta di Madonna del Ghisallo transalpina, protettrice dei ciclisti, per gentile consacrazione effettuata da Papa Giovanni XXIII. La chiesa è piena di cimeli, portati lì dai campioni del passato. Quando il gruppo vi sfreccerà ad oltre 40 km orari, i velocisti faranno bene a chiedere un esorcismo contro il demoniaco Kittel. È tutto per oggi, l'appuntamento è per domani con la presentazione della 12esima tappa. Vi invito a seguire il post tappa, ovviamente su Bidon, e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P, au revoir. Dunque, ragazzi, riuscirà l'esorcismo di Kittel oggi? Il re di vivo Degenkolb o il demoniaco Kittel, Filippo? Ma il vincitore a mani basse Pietro Pisaneschi, sempre più ottimo, ogni sua presentazione mi convince sempre di più. Questa roba di Notre Dame dei ciclisti non la sapevo nemmeno. Sì, è vero. Una buona occasione per ricordare, insomma, i musei e i luoghi simbolici. Lui giustamente ricorda di Zarlo, che è sempre un piacere ricordare, salutare e andare a visitare assolutamente. Oggi vince Kittel. Vince Kittel. Alex Cattaneo ci ha scritto nel commento al video, alla diretta, oggi Matthews. Matthew sta correndo alla Sagan in questo tour, è andato in fuga sì, durante la tappa di montagna, bene, magari saremmo contenti se vincesse lui. Matthew sta correndo raggranellando punti sperando che Kittel salti sulle montagne, cosa che sarebbe anche realistica se ci fossero delle montagne sufficienti a far saltare un corridore francese. E la fuga? Sarà dura. La fuga oggi? La fuga sarebbe curioso, sarei curioso di vedere la formazione della fuga, proprio per quello che dicevate prima su Kung, che è stato respinto. Molto interessante le dinamiche del gruppo, poi chi va in fuga ormai ci vanno sempre quelli della Wonti, quelli della Fortuneo, magari un Direct Energy che ieri sono messi in testa per fare, ma le fughe, si è capito, da questo tour in queste tappe non vanno, per cui speriamo ci siano dei bei personaggi, così almeno scopriamo dei personaggi nuovi e abbiamo qualcosa da scrivere dopo. Grazie Filippo, ci sentiamo domani. Volevo aggiungere una buona notizia che sì, leggevo adesso preparandomi sulle cose da dire, che pare che sia, se non pare, ufficiale che stanno migliorando molto le condizioni di Claudia Cresti, la ciclista che è caduta a Giro d'Italia, che si trova ancora in coma farmacologico, insomma sta meglio, l'ha dichiarato tua madre su Facebook, forse verrà svegliata prossimamente e noi secondo me continuiamo a fare il tifo per lei, che serve sempre. Ovviamente, forza. Grazie, a domani, ciao. Buona giornata. giornata, ciao ciao. Ebbene, noi andiamo avanti, mentre Antonio Loi invece si augura che possa vincere Greipel, e ce lo auguriamo anche noi, perché effettivamente... Dice, Antonio, una dovrà pur vincerla, si dovrà pur ripigliare. Diciamo una questione statistica. Una questione statistica, però Greipel non è più un ragazzino, dobbiamo aggiungere. Speriamo si riprenda. Feucht ha detto che oggi avrebbe vinto lui, vedremo. E chissà. Vediamo chi contraddice Foyt oggi. Forse lo contraddice Fiammetta Ruiu? Non lo so, so sicuro che oggi si arriva a Po, un luogo dove c'è un bellissimo castello, e Fiammetta è con le sue castello. È andata nel castello nel e castello. Ha raccolto una storia emozionante. Immagino. Emozionante, ti ho detto, sul castello di Po. Con i suoi esoconti ocra. E vabbè. La terra e il cielo. La terra incontra il cielo. Il cielo incontra la terra. La terra ama il cielo. Il cielo ama la terra. Amore. E dall'amore di terra e cielo sboccia il castello. Ma come? Il castello di Po. E cosa succede al castello di Po? Che succede? Inizia questa storia. Ah, questo negli è occhi di Francesco si staglia Francesco. Il castello e il suo animo volubile e produttivo agogna indomito un sogno. Un ritorno al passato, un'antica strada da ripercorrere. Francesco vuole riportare la monarchia in Francia. Che vuol dire? Forza Francesco, scrivi un progetto, portalo in comune, stampa adesivi promozionali e compra un libro di storia, Francesco. Studia. Lavora per costruire i tuoi sogni. Bravo. Ma purtroppo il duro mondo degli uomini non dà possibilità a chi agisce senza sapere che cosa sta facendo. E purtroppo riportare la monarchia in Francia è impossibile. No. Il progetto di Francesco è inattuabile e agli occhi di tutti Francesco è un demente. No. Anche ai miei. Francesco perde la speranza, perde la dignità, perde il senso del limite, perde tempo col cellulare. Anche col cellulare. Ora, mentre Francesco osserva il castello, una lacrima gli solca il viso. No. Ed intravede nel cielo un'aquila reale. Ma no, ma come l'aquila reale? Cambio. Ma si sbaglia. Ah. È un airone. Ah. Attonito. Ah, molto bello. L'airone attonito. Ma dai, ma c'era l'aquila reale oggi. Colpo di scena. Aironi e aquile. Ma invece, oggi. Scusami, bravissima. Due cose. Francesco. Anzi, Francesco va al comune a portare il progetto per restaurare la monarchia in Francia. Perché cerca di fare una riforma all'interno del sistema democratico. Giustissimo. E questa? Mi sa che per oggi, le nostre cronache ocra e con la nostra trasmissione abbiamo concluso. Sì, noto che nessuno di voi ha scritto a me piacciono le volate, non vedo l'ora che si arrivi in volata, non conosco nessuno che... No, qualcuno ha scritto... No, nessuno, perché a nessuno piacciono le tappe con le volate. Qualcuno ha scritto ai parenti di Kittel. Sì, sicuramente. I parenti a Kittel forse anche piacciono le volate. Forse anche Kittel c'ha un debole per ste tappe. E invece sulla bellezza qualcuno non si è votato tra Cobb e qualcuno dice Koblet, era più bello Koblet, ma il fascino antico di Koblet. Comunque, continua questo... Laura suggerisce anche Darry Gad o Rick Van Looy. Come bellezza. Come bellezza, immagino. Scopriremo nei prossimi giorni che il ciclista più bello, per oggi mi sa che abbiamo... Sì, abbiamo proprio concluso. Abbiamo concluso. E non vedo l'ora di andarmi a vedere la tappa di oggi mentre mangio del sushi. Ma tu sei scorretto, sono belle queste tappe. Sì, assolutamente. Avremo sempre, e poi grazie a Bidon c'è sempre qualcosa da capire. Abbiamo... Il post di ieri a me ha divertito moltissimo, tanto non l'ho scritto io, posso dire che è bello. Anzi, vi invitiamo a seguire i post di Bidon la sera verso le 7:30, c'è il commento alla tappa. Quando riusciamo. Dunque, per noi per oggi abbiamo concluso, vi diamo appuntamento a domani mattina intorno alle 11 con il commento e la nostra trasmissione Bonjour Bidon. Chiudiamo con la nostra frase da emozioni assicurate, che oggi è state col ciclismo, perché che il ciclismo fa venire la pelle d'ocra. No. E vabbè, dai. Va bene, me ne vado, ho sigla. Fatto riferimento alla... Sì, dai. Ma dai. A te ti piacciono le volate, ma cosa capisci? Sì, ciao, certo. Ciao. De France. Vieni insieme a me, un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobet.